9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, e in questo mercoledì 19 gennaio il tema è ancora una volta obbligato, non è questione di volere o non voler parlare del gossip delle intercettazioni, e cioè di ciò che costituisce il punto fondamentale degli elementi di questa indagine che è esplosa sulle notti di Arcole. Bisogna farlo per forza, perché questo è il colpo di maglio che si abbatte per l'ennesima volta sull'agenda politica, impedendo che l'agenda si concentri sui temi del paese. E per l'ennesima volta pone a tutti il problema: sarà questo nuovo colpo della magistratura tale da cambiare i 17 anni quasi che abbiamo alle spalle, oppure no? È la volta giusta in cui Berlusconi vede il suo scudo incrinato, oppure invece lo scudo resta e il popolo del centrodestra con il suo leader vittorioso nel 2008, nel 2009 e nel 2010, voglio dire nei turni successivi alle europee e alle amministrative seguite al voto politico, ancora una volta si tiene saldo intorno al giudizio che siano iniziative persecutorie che il leader debba essere difeso. Non lo so, le cronache di oggi sapete riportano della preoccupazione del Quirinale. Tra le cose che più mi hanno colpito stamattina leggendo i giornali, l'interpretazione dei possibili sviluppi che dà per esempio il Foglio, fondato e diretto da Giuliano Ferrara, che pone due prospettive nella sua prima pagina, le chiama l'alternativa tra la ridotta e l'armistizio. Sono due ipotesi più o meno di questo tipo. La prima è quella per cui il terzo polo fa una sua offerta, Letta premier è un'uscita onorevole per il Cavaliere, che rifiuta, però si dice tra parentesi alla conclusione del titolo di questo prima corno del dilemma. Il secondo corno sarebbe il piano della Chiesa per cooptare Casini, che funziona un po' meno perché vi sono pareri richiamati di esponenti della Chiesa Cattolica come l'arcivescovo Bruno Forte, mai stato del resto notoriamente un estimatore del Presidente del Consiglio, e però che ritengono che, se è vero quello che c'è negli atti giudiziari relativo alle notti di Arcole, allora il Premier deve andarsene. Mentre invece, se andiamo a vedere i titoli degli altri giornali più vicini al Premier, il titolo del Giornale ha un editoriale che dice: magistrati e politici, il bipolarismo che affonda l'Italia, di Nicola Porro. E il titolo grande di apertura del Giornale diretto da Alessandro Sallusti: gli italiani non ci cascano, i sondaggi confermano, l'assalto dei PM non intacca il gradimento del Premier, e Tremonti liquida il governo tecnico, un onore fare parte di questo esecutivo. Il titolo, con la dichiarazione attribuita ieri a Berlusconi: io dimettermi non sono matto, i giudici di Milano incompetenti, illogico che mi presenti di fronte a loro. Libero invece fa la scelta, diretto da Maurizio Belpietro e con Feltri, fondatore e direttore editoriale, fa la scelta di pubblicare per numerosissime pagine gli atti giudiziari per consentire a tutti di farsi una propria diretta idea del contenuto e dell'intento persecutorio, si dice, degli atti giudiziari. Il Corriere della Sera è molto prudente oggi perché decide di dedicare la sua apertura alla visita negli Stati Uniti di Hu Jintao, e con un fondo di Sergio Romano, e c'è un titolo in prima pagina che dice semplicemente: Berlusconi reagisce, non mi dimetto. E un pezzo, un editoriale su il Côté, che è più di colore che di sostanza, che descrive e critica la corte degli avidi al bancomat di Arcole, cioè il tono con cui tutti coloro che vengono ammessi alle residenze e alle feste di Arcole parlano tra loro il Presidente del Consiglio, una maniera che certo non fa molto onore al giudizio che hanno il Presidente del Consiglio. E poi un editoriale, quello di Piero Stellino, che dice: l'immagine del paese e la dignità delle istituzioni, che critica le modalità, i contenuti, la pervasività delle intercettazioni. Quindi sui più dei giornali prevale o l'attesa o la prudenza. E sentiamo allora oggi, con due grandi interpreti del giornalismo e della vita italiana, qual è la loro opinione intorno alle conseguenze e agli sviluppi di quello che sta avvenendo. Le mie due domande sono, sì, che uguale per tutti, iniziali, e sono: siamo a un punto di svolta, cioè questa indagine dà il colpo finale, per così dire, a Silvio Berlusconi, e quindi bisogna aspettarsi che davvero faccia faccia il passo indietro che molti gli chiedono e che è un po' implicito, almeno nella richiesta di chiarimenti, ma almeno quella da parte del Quirinale, con la preoccupazione che può voler dire però che non bastano neanche i chiarimenti. Quindi la prima domanda è: siamo a questo? Secondo, cosa può avvenire nel caso in cui questo avvenga o in cui questo non avvenga? E queste sono le mie due domande che pongo a Giorgio Mulè, direttore di Panorama, e a Gad Lerner, che lo sapete, è l'autore e conduttore di Infedele sulla 7. Gad ci accompagnerà per tutta la trasmissione e Giorgio Mulè invece solo per fino alle 9:25 per la prima parte iniziale. Per questo chiedo a Gad di pazientare un secondo e inizio con Giorgio Mulè chiedendogli da parte sua le sue risposte. Grazie, buongiorno Oscar, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ma Berlusconi è intimamente convinto di non aver fatto nulla di disdicevole, quindi è da togliersi dalla testa che possa in qualche modo autonomamente fare un passo indietro, proprio perché ha la granitica certezza interiore di essere nel giusto. Non solo, ha anche la intima certezza di essere stato ancora una volta perseguitato con i peggiori metodi che si possono ipotizzare in uno stato di polizia, forte quindi di questa convinzione che gli proviene anche da quello che gli continuano a dire i suoi avvocati, non si presenterà sicuramente al PM di Milano e continuerà a denunciare quella che è un'operazione volta soltanto a screditarlo e quindi a disarcionarlo. Attendersi quindi da parte sua un passo indietro è da dimenticare. Per quanto riguarda invece gli sviluppi, come dire, esterni e che non tengano conto del Cavaliere, in realtà sono così indissolubilmente legati che con la maggioranza attuale, che dovrebbe essere ulteriormente puntellata dall'arrivo di 4-5 deputati, poi vedremo, il governo, come dire, prende sicuramente una boccata d'ossigeno, dopodiché una volta che si è votato il federalismo, a staccare la spina non sarà Berlusconi ed eventualmente sarà Bossi, questo detto in due parole. Ah, però, in cauda veneno, per così dire. Gad, secondo te invece è ferito a morte ed è costretto a farlo il passo indietro, e se non lo fa cosa succede, o se lo fa cosa succede? Tu che ti aspetti? Ferito a morte, tu dici. Ieri sera ha dichiarato che si sta divertendo. Allora, io non credo che Silvio Berlusconi in questi giorni si stia divertendo, altrimenti dovrei pensare che è un mostro, e non penso affatto che Silvio Berlusconi sia un mostro, molto più semplicemente penso che sia un bugiardo e che anche questa, che lui si stia divertendo, sia una bugia per rincuorare i suoi e per confermare nell'opinione pubblica quella percezione che Mulè prima sintetizzava: io sono tranquillo, non ho fatto niente di cui mi debba vergognare. Qui sta il punto, a me basterebbe in abbondanza ormai quello che Berlusconi fa da qualche anno, non da sempre, solo da qualche anno, con decine di giovani donne maggiorenni, senza bisogno di tirare in ballo i reati con le minorenni e la concussione. Mi basterebbe il suo modo di comportarsi con le giovani donne maggiorenni per considerare questo stile di vita non compatibile con l'incarico di portavoce degli interessi nazionali italiani. Non credo quindi che sia una questione che attiene soltanto al suo privato, penso che sia una questione culturale che riguarda l'Italia intera e che, siccome da questa inchiesta, dalle centinaia di voci che testimoniano, stiamo ormai a centinaia di voci che univocamente testimoniano questi comportamenti e questo stile di vita, comunque lo rendono ridicolo, perché oggi Berlusconi è coperto dal ridicolo, questo se resterà, come è possibile, Mulè ha ragione, è possibile che lui non sia disarcionato, è possibile che lui resti ancora per un anno o due anni Presidente del Consiglio dei Ministri di questo Paese, questo però comporta per transizione logica implacabile che il ridicolo ricade sul Paese. Siccome il giudizio che dai è un giudizio netto e secco sul personaggio da parte tua, e interpreti una parte che esiste ed è ben rilevante nell'opinione pubblica del paese, si vede dai sondaggi, quando ieri abbiamo aperto i microfoni si è spaccata in due radicalmente, ma nel caso in cui invece ci fossero segni di cedimento in Parlamento tra i sostenitori, la Lega staccasse prima... Ma lì sono d'accordo con Boulet, è la Lega il punto di osservazione privilegiato in questo momento, fino a quando alla Lega converrà ad operare quest'uomo ridicolo? Perché fino a questo momento ha taciuto. Fino a questo momento tace e credo che fino a questo momento le convenga. La Lega, come nota spesso un illustre commentatore del Sole 24 Ore, che è anche forse il miglior scienziato politico italiano, Roberto Dalimonte, la Lega ha davanti a sé una chance straordinaria. Alle prossime elezioni potrebbe diventare il partito di maggioranza relativa del Nord Italia. L'elettorato che oggi è PDL nelle regioni del Nord potrebbe, come già in Veneto è avvenuto quasi completamente, pure in Lombardia, in Liguria, in Piemonte, spostarsi sulla Lega, e quello sarebbe un traguardo storico talmente importante da restare nella coalizione con Berlusconi, magari anche nell'estrema precarietà della sua leadership. Moulet, se guardiamo la scelta di equilibrio di imbarazzi, per così dire, per non esprimere opinioni nette, per esempio di un altro grande quotidiano, La Stampa di Mario Calabresi, oggi La Stampa mette tre commenti in prima pagina. Una copre un pochino lo stesso versante della tristezza di coloro che approfittano di Berlusconi, però dal punto di vista, questa volta molto diverso, della tristezza morale del leader solo, e c'è un articolo di Enzo Bianchi che dal punto di vista di una morale cattolica, Enzo Bianchi, monaco, è una personalità straordinaria, appunto affetta, per così dire, la tristezza della lussuria di Berlusconi. Poi però ci sono i due commenti che riguardano la parte politica, quelli di Federico Geremica e quelli di Mattia Feltri, che dicono: ma l'opposizione è nel pantano, firmato da Federico Geremica, e dice: ma di quali sviluppi al posto del Cavaliere stiamo parlando, visto che qua l'opposizione non è in condizione di essere unita su niente, né elezioni né controelezioni, è spaccata, divisa, non ha una prospettiva. E poi anche Mattia Feltri si dedica invece al tradimento delle capiati della Corte intorno a Berlusconi. Le chiedo un'opinione innanzitutto su questo primo punto, quello di Federico Geremica: è possibile ipotizzare sviluppi senza Cavaliere o di dimissione di Cavaliere senza voto, con voto eccetera, con un'opposizione in queste condizioni? Secondo lei a cosa si appoggerebbe il Quirinale? Guarda, sicuramente in questo momento no, perché l'opposizione non ha i numeri, e l'ha dimostrato il 14 dicembre, per poter neanche, come dire, costituire un blocco alternativo, seppur di transizione o di liberazione nazionale o di decantazione, o chiamatelo come vi pare, alternativo a Berlusconi. Giustamente prima Gad parlava di problemi di tipo culturale, di stili di vita, di contegno. Il problema straordinariamente grave di questa vicenda è che si tende a confondere i reati con i peccati, cioè noi ci troviamo di fronte sicuramente a una massa di peccati, ove sarebbe, ove fossero vero ovviamente, commessi da parte del Presidente della Repubblica, che si vuole trasporre come reati. Cioè, qui parliamo di un'inchiesta giudiziaria. Hai detto commessi dal Presidente della Repubblica? No, sì, lapsus, e questo perché proiettavo Berlusconi al Quirinale, ma diciamo così. Allora, i reati si confondono con i peccati. Ecco, questa è qualcosa che sicuramente sta accadendo, cioè l'indicazione e la condanna morale, quindi non giudiziale, morale del Presidente, dovrebbe trascinare il Presidente in un gorgo. Vedi, quello che io penso in realtà è che ancora oggi sui giornali ci sono le accuse di due pentiti, sono veramente due palordi, siamo oramai alla feccia della feccia, i quali ovviamente del relato dicono: ma un mafioso mi disse che Berlusconi era dietro le stragi del 93. Va bene. La cosa, come dire, paradossale che stiamo vedendo è che dal 94 in poi Berlusconi ha dovuto fronteggiare qualsiasi tipo di accusa, fino ad arrivare a quella di essere il mandante, non ultimi Spatuzzo e Ciancimino, anche delle terribili stragi del 92 e poi quelle che è successo nel 93. Quello che in maniera palmare io adesso sto vedendo e devo dire è che alla fine, se Berlusconi cadrà, non cadrà per questa miriade di inchieste e questa miriade di fango enorme, di cose terrificanti che gli hanno rovesciato addosso, ma cadrà solo perché Silvio Berlusconi è stato capace di ammazzare Silvio Berlusconi, cioè è stato lui stesso, in virtù di questi comportamenti, quindi oramai siamo alla fine, cioè io non penso che dopo i bunga bunga cosa altro possiamo discutere. Però tutte le altre condotte che gli hanno appiccicato addosso in questi anni, che si sono rivelati nella peggiore delle ipotesi false, in alcune prescritte, in altre assolte nel merito, comunque sono andate via come un fiume. In che cosa rischia di cadere? Per una storia di quattro signorine, 10, 20, quelle che siano. E perché, come giustamente dice Lerner, il quale Lerner si aggancia a quello che è il coro totale, vi è una condanna di tipo morale. Cioè quello di cui stiamo discutendo sono i comportamenti privati, quindi lo stile di vita, e in questo concordo perfettamente, del Presidente del Consiglio, che secondo alcuni, secondo molti, secondo moltissimi, non è consono alla carica che ricopre. Però stiamo discutendo di questo. Perché è l'opinione di chi la pensa così, la separazione, l'intangibilità, il fatto di separare in maniera così rigida, di rivendicare il fatto che nel privato si può fare ciò che non pertiene al giudizio di come si svolge il ruolo pubblico, a lungo andare questa separazione tra morale privata e coscienza pubblica produce a lungo andare un danno rispetto alla stessa morale pubblica del paese, e questa è la loro convenzione. Io dico soltanto una cosa: se a fronte di una prestazione sessuale, al di là del giudizio morale che non mi permetto di dare, ci mancherebbe altro, faccio un discorso di tipo tecnico, se una prestazione sessuale corrisponde una dazione di tipo sbagliato nei confronti rispetto a un appalto o attività del Presidente del Consiglio o anche di un assessore, allora la faccenda, come dire, mi turba, e mi turba anche molto, come è già successo in Puglia. Vi erano delle escort che venivano messe nel letto da parte di imprenditori, di assessori della Regione Puglia, i quali in cambio di questi sollazzi poi davano gli appalti. Bene, quello a me turba dal punto di vista, come dire, da cittadino, da lettore, mi turba molto meno obiettivamente se 10, 15, 85 ragazze vanno ad Arcore, ballano nude, seminude, quello che è, se ne vanno e Berlusconi gli dà 1.000 euro, in cambio di che? Cioè qual è il danno che ha provocato all'Italia e agli italiani? Di discredito, di dileggio, ok, ne possiamo discutere tutta la vita, ma dal punto di vista pratico la funzione del Presidente del Consiglio in che cosa è venuta meno, ove fossero avvenuti i festini di cui si parla in quelle carte che Berlusconi si ostina a negare? Ecco, a questa domanda che pone Mulè, e che torniamo al punto, gli effetti di lungo periodo sulla separazione tra le condotte private e morali quando si esercitano incarichi pubblici, Gad Lerner che risposta dà? Qual è l'effetto invece a lungo andare secondo lui nella coscienza, nella vita del paese, nei comportamenti quotidiani pubblici e privati, perché col privato poi anche che si fa il pubblico, si svolge il ruolo pubblico? Sono molto più vicino a Mulè di quanto forse crediate, perché anch'io penso che ci sia un piano dei reati penali e che ci sia un piano che nella cultura cattolica, che non mi appartiene, viene sintetizzato con la parola peccati, e che attiene invece alla dignità e alla congruità dei comportamenti. Anch'io, in base alla mia fede religiosa, ai miei codici morali, all'educazione che tendo a dare ai miei figli, alla riflessione che la storia mi ha portato a compiere sulle relazioni tra uomo e donna, ho, diciamo così, degli elementi, sì, non ho paura ad operare questa parola che viene usata quasi minacciosamente, se non sbaglio, da Mulè, di esprimere dei giudizi morali. Credo che sarebbe meglio se tutti noi prendessimo sul serio la morale e l'etica pubblica e il rapporto tra la nostra vita privata e l'etica pubblica. Questo paese migliorerebbe se i giornali, anche quello che Mulè dirige, esaminassero ad esempio la questione della dignità della donna in questo paese, non come un moralismo, e la parola moralismo è abusatissima per liquidare come insignificante e irrilevante quello che invece, e l'ha detto bene Mulè, è oggi centrale nella vicenda di Berlusconi, che come giustamente Mulè ha detto potrebbe cadere a causa dei Berlusconi stesso, delle sue ossessioni, e della sua impunità, del suo senso di impunità così sfacciato e senza vergogna. Da 2 anni almeno, io nelle mie trasmissioni e negli articoli che scrivo, vado affermando che la questione femminile, la questione del rapporto tra Berlusconi e le donne, è centrale nella sua vicenda politica, è quella che ha incrinato il suo piedistallo. Oggi è difficilissimo per uno che si è immaginato nella relazione con un elettorato considerato al tempo stesso pubblico consumatore, clientela oltre che cittadinanza, è difficilissimo pensare il passo indietro, me ne rendo conto. Un uomo molto spiritoso ma intelligente della Prima Repubblica come Rino Formica qualche tempo fa ha suggerito come forma di salvacondotto che contempla se non altro l'immunità parlamentare, facciamolo senatore a vita per dargli questa via d'uscita, dato che al Quirinale non riusciamo proprio a immaginarci per 7 anni che possa essere lui a rappresentare il paese, facciamolo senatore a vita e che non se ne parli più, ma sarà difficile arrivarci, mi rendo conto. Siamo quindi a proposte di exit un po' fantasiose. Ricordo a tutti che quando per le feste qualche settimana fa Vittorio Feltri a Cortina se ne uscì dicendo qua si fa a immaginare il Quirinale Berlusconi con la sua scia di escort, il giornale che aveva diretto fino a pochi giorni prima insorse dicendo Feltri ha cambiato bandiera, però nelle battute di Vittorio Feltri c'era in realtà lo stesso tipo di giudizio che Gad Lerner ha appena espresso, e sappiamo tutti come la continuazione, l'ipotesi del Quirinale fosse in realtà centrale, sia ancora centrale nella testa di Silvio Berlusconi e dei suoi alleati. Ora c'è la pubblicità, poi torniamo anche con le vostre telefonate. Eccoci tornati qua in studio e ci stiamo interrogando con Giorgio Mulè e con Gad Lerner sugli sviluppi che ci aspettano sull'indagine Notte di Arcore. Ci siamo, non ci siamo, che conseguenze per Berlusconi? Avete sentito che in realtà il realismo e anche la prova di resistenza di cui Silvio Berlusconi ha dato prova in questi 17 anni in realtà fanno, sia pur da punto di vista molto diversi, con giudizi molto diversi, preoccupazioni diverse, fanno ipotizzare i nostri due ospiti che non è affatto detto che anzi sia dietro l'angolo il fatto che Berlusconi accolga l'appello che gli viene con una certa durezza da osservatore come quelli di Repubblica, del Fatto Quotidiano, che dicono guarda hai perso ogni dignità e la fai perdere anche al nostro paese, levati di mezzo, non dobbiamo aspettarcelo. Il Fatto Quotidiano oggi poi aggiunge del pepe rispetto agli atti che potete leggere sui giornali, perché l'apertura sua è quella dedicata all'annuncio che girano video e foto del Bunga Bunga perché sarebbero nei cassetti delle ragazze che chiedono soldi al Premier. A fonte Fabrizio Corona, non so quanto affidabile, però questo è il titolo che fa pensare che ci siano prove corredate da immagini che vedremo presto avvampare nel dibattito pubblico. Sentiamo qualche telefonata, poi torniamo ai nostri ospiti per vedere come considerano le reazioni dei nostri ascoltatori. Cominciamo con Carla che ci chiama da Roma. Prego Carla. Buongiorno a tutti quanti. Volevo fare questo tipo di riflessione. Diciamo che sentivo anche da voi oggi, ma anche un po' in questi giorni, proprio sulla questione che stiamo parlando, che viene spesso riportata nell'aspetto italiano, quindi la politica italiana, la figura di Berlusconi come politico, come uomo italiano, però anche questa vicenda, forse qualche riflessione su contesti diciamo un po' più di respiro europeo internazionale sarebbe importante capirla e valutarla, cioè che cosa ha portato, perché comunque è importante anche questo, nel tempo a far vedere Berlusconi come un personaggio a livello internazionale di che tipo, personaggio che è amico dell'America, dà fastidio all'America, è un personaggio che con le sue azioni da leader, perché lui è un leader che per sua potenza personale dà un po' fastidio in particolare all'America, perché non era abituata ad avere politici che avessero queste spalle molto grosse e quindi anche questa capacità di dire, anche scherzando ad un addirittura al Presidente degli Stati Uniti che era abbronzato, cioè questa cosa può influire su quello che sta succedendo adesso e quindi capire questa forza che l'Italia ha acquisito nel tempo, perché così a livello internazionale addirittura di timore da parte di qualcuno, quindi poter anche aver portato, perché no, a tirar fuori un po' più velocemente, un po' più con impeto certe questioni anche dal punto di vista della magistratura. Quindi una domanda ai nostri due ospiti, sì, sull'aspetto internazionale. Stimo molto, sia lei, grazie, che le due. No, ma io qui faccio il semaforista oggi, quindi l'aspetto internazionale, che peso e che forse anche che quanto può aver pesato. Certo, le indagini sono fatte dai magistrati italiani e i comportamenti che vengono in luce sono italiani, però Carla chiede ai nostri due ospiti. Sentiamo ancora Stefano e poi passiamo alle loro prime risposte. Stefano ci chiama dalla provincia di Cuneo, prego Stefano. Sì, buongiorno, io volevo fare una riflessione in merito, chiedendomi anche come mai non c'è mai da chi sta commentando quello che sta accadendo anche un'analisi, se vogliamo, di chi riceve queste informazioni, nel senso, si è visto gente nei bar che tutto sommato dice vabbè, ma cos'è, un uomo, sono cose che capitano, può succedere a chiunque. Cioè io mi preoccuperei, o comunque sia analizzerei anche questo tipo di aspetto, e cercando un attimo di capire anche qual è il profilo delle persone che poi costituiscono l'elettorato alla fine, e che comunque sono coloro che sono il riferimento a sua volta del premier, o comunque sia dei partiti. Dicono abbiamo il consenso, ci hanno eletto, per cui in questo sistema di teledipendenza in cui le informazioni che le persone hanno sono o non se le vanno a cercare o sono deviate o comunque sia, secondo me il consenso al premier non è che sia intaccato più di tanto dal fatto che... Sì, ecco, però mi faccia capire una cosa, quando lei dice bisogna tenere in considerazione quella parte d'Italia ai cui occhi in realtà i difetti di Berlusconi hanno semplicemente reso finalmente non ipocritamente celato il fatto che ci può essere un uomo politico in politico, e cioè che fa della sua vita privata, dei suoi comportamenti di tycoon eccetera, uno dei punti di forza del consenso che a quel punto resta nel paese. Però io non ho capito se nel dire questo, che è uno degli elementi di fondo del berlusconismo in questi 16 anni, lei dice si devono esprimere loro, cioè torniamo al voto per capire, oppure semplicemente tenete conto che è un aspetto molto forte del berlusconismo permanente e non crediate che venga intaccato oggi nel consenso. Quale delle due sta dicendo lei? Esatto, secondo me la seconda. Sicuramente, cioè, non vedo capito. Allora noi abbiamo due questioni dai nostri primi due ascoltatori, cominciamo con Mulè. Primo, quanto pesa l'aspetto internazionale? Secondo, è intaccato il consenso anche ai difetti di Berlusconi, in quanto non più ipocritamente celati, nel popolo del centrodestra, a suo giudizio, Mulè? Sono due no modulati in maniera diversa. Dal punto di vista internazionale queste rivelazioni fanno il paio con i casi che già abbiamo visto di Noemi Letizia, altri vari casi di tipo tra virgolette sessuale che in questi anni oramai accompagnano il premier. Segnalo soltanto che nei cable di Wikileaks vi erano già abbondanti informazioni legate all'attitudine dichiarata agli ambasciatori americani del premier di fare feste a casa sua, che sarebbero sfociati nel sesso. Cosa ha provocato questo a livello internazionale? A mio giudizio, zero. E che cosa provocherà questa nuova ondata di intercettazioni a livello internazionale? Nulla, nel senso che i rapporti consolidati che il Presidente del Consiglio intrattiene con la cosiddetta politica delle pacche sulle spalle, chiamatela come volete, mi limito a fotografare la situazione, mi porta a dire che i rapporti personali sono talmente, come dire, profondi che da un punto di vista di politica internazionale nulla cambia, anche perché nelle sedi come l'Ecofin, in sedi come l'OSCE c'è un ministro dell'economia, Giulio Tremonti, che non solo tiene ben salda la barra e il timone della credibilità del governo, ma si fa addirittura promotore, e in questo viene seguito a ruota da ministri delle finanze di tutti i paesi europei e non soltanto europei, rispetto a iniziative che egli stesso pensa. Quindi dal punto di vista internazionale zero, anche perché poi l'America, che certamente guarda con un occhio non benevolo l'Italia, soprattutto per le vicende legate all'energia, all'approvvigionamento di energia della Russia, in questo momento ha tutto l'interesse soprattutto dal punto di vista della presenza militare italiani in Afghanistan a tenere un eccellente rapporto con il governo italiano, perché l'alleanza altrimenti in Afghanistan perderebbe un pezzo fondamentale. Rispetto al consenso di Berlusconi, ci ha abituato, ripeto, 17 anni di strategia anti-berlusconiana, ci porta a dire che tutto questo in realtà, e questo lo dice la storia, rafforza il Presidente del Consiglio nei consensi, e casomai dopo una fase iniziale in cui calano i consensi legati all'attualità del fatto, in una fase successiva che si misura nell'ambito massimo di 1 o 2 mesi, questi stessi consensi non solo rientrano ma si innalzano, perché nel frattempo Berlusconi se ne inventa una delle sue da straordinario comunicatore qual è, e supera e si porta avanti rispetto ai consensi che aveva prima. È successo, ripeto, storicamente nel tempo, e secondo me succederà se il Presidente del Consiglio esce indenne da questa vicenda anche in questo caso. Lerner, se è vero questo che dice Mulè, lui non l'ha detta così, ma io apposta per farti la domanda paradossalizzo, se è vero questo, e cioè se continua a essere vero che anche di fronte alle donne trattate così c'è una conferma del difetto non più ipocritamente celato, uno dei cementi del popolo del centrodestra italiano, paradossalmente bisognerebbe concludere che i migliori alleati di Berlusconi sono, per così dire, i magistrati che ritengono di fare il loro dovere con le indagini, e nelle informazioni coloro che leggo l'attacco di Barbara Spinelli oggi su Repubblica, per chi la pensa come la Spinelli, e la Spinelli ha ragione esattamente, perché da tanti anni il Premier incarna tutti i difetti che non sono tollerabili nello statista, nel come si fa il suo mestiere prima che per come lo si fa. Cosa dice Barbara Spinelli oggi? Leggo: dovrebbe essere ormai chiaro a tutti, anche a chi vorrebbe parlare d'altro e tapparsi le orecchie, anche a chi non vede l'enormità della vergogna che colpisce una delle massime cariche dello Stato, che una cosa è ormai del tutto improponibile, che il Presidente del Consiglio dov'è senza neppure presentarsi al Tribunale, che addirittura pretenda di candidarsi in future elezioni come Premier. Molti lo pensano da tempo, da quando per evitare condanne il capo di Fininvest considerò la politica come un sotterfugio. Sono questi i migliori alleati di Berlusconi? Tu che ne pensi di questa domanda paradossale, ma per capire se secondo te è confermato anche questa volta il consenso del popolo del centro destra o si incrina? Se permetti, rispondo volentieri a questa domanda, dietro alla quale c'è il solito dubbio un po' razzista per cui esisterebbero due Italie, non importa qui se dire una migliore e l'altra peggiore, ma degli italiani geneticamente quasi diversi nell'approccio con queste domande fondamentali dei comportamenti di vita. Ma se permetti, dicevo, forse vale la pena in proposito di spendere una parola anche da parte mia sugli altri poteri che intervengono, certo, in questa storia, come chiedeva l'ascoltatrice Carla da Roma, perché c'entra parecchio. Il potere italiano non è fatto soltanto dalla Presidenza del Consiglio, esiste un esercito che ha molta consuetudine con gli eserciti alleati in giro per il mondo, esistono dei servizi segreti, esistono delle forze di polizia, esiste una magistratura, esiste un establishment finanziario, eccetera, eccetera, eccetera. Questi hanno vari contatti internazionali. Come ricordava prima Mulè giustamente, oggi non si vede un'alternativa politica immediata a Berlusconi, il centro-sinistra non la manifesta dal punto da essere timido nel chiedere le elezioni anticipate, che sarebbe logico. Tu chiedi, come Bersani ha chiesto ieri, che si ritiri a vita privata il Premier, logica vorrebbe che tu dica torniamo alle urne e mi candido io, no? Invece è più complicato. Il che spiega anche la cautela delle varie potenze internazionali, dall'Unione Europea alla Casa Bianca, nel pensare un dopo Berlusconi al quale tutti studiano, tutti studiano, e il nome di Tremonti è uno dei più gettonati perché è il più conosciuto, ha dato prova di stabilità finanziaria e quant'altro, ma tutto questo si ripercuote sull'inchiesta, badate bene, perché come notano giustamente alcuni parlamentari del PDL intervistati dal Foglio di oggi, È evidente che questa inchiesta segnala anche che ci sono dei poteri dello Stato italiano, non più solo la famigerata magistratura, ma forze di polizia, carabinieri. Pensate a quei disgraziati delle scorte che stanno fuori da Palazzo Grazioli o da Villa Certosa, i sommozzatori che devono stare tra sott'acqua e sopra a salvaguardare l'incolumità del premier, che assistono a quelle scenette. Per cui non escludo che si siano stufati, no? Vedremo, e credo che gli atti di questa inchiesta manifesteranno anche questo. Quindi ci sono certamente dei poteri che interferiscono con il declino satrapesco di un uomo ormai ossessionato e che in tarda età ha una regressione adolescenziale grottesca. Allora, su questo ti fermo perché c'è l'informazione sulla circolazione stradale, quindi hai dato la prima risposta, quella sugli aspetti degli altri poteri e anche del quota internazionale, e ti do subito la parola poi per la risposta invece sono i potenziali migliori alleati, allora quelli che lo perseguono. Come sta il consenso del popolo centro-destra di fronte ai difetti evidenti dell'impolitico Berlusconi? Informazioni sulle strade. Eccoci tornati in studio e restituisco la parola a Gadler. Guarda, qui scusate ma dovrò parlare di scambio mercenario, di pagare le prostitute, insomma. Non è un caso, ragionando sull'elettorato di centrodestra, sul consenso a Berlusconi, non è un caso che con grande abilità, calcolo di marketing, in tutti i suoi interventi pubblici Berlusconi ribadisca: io non ho mai pagato una donna per una prestazione sessuale, nonostante svariate testimonianze in senso opposto, da Nadia Macri alla Daddario ad altre che già hanno raccontato di essere state pagate, qualcuna per interposta persona, qualcuna invece direttamente da Berlusconi, ma questo non costituisce reato, come potrebbe ricordarmi Mulet, e quindi non può essere oggetto di inchieste giudiziarie se si tratta di maggiorenni. Ma bisogna dire questo perché io sono padre di figli maschi che hanno tra i 20 e i 18 anni. Che cosa gli insegno? Sono un benestante, gli insegno che il sabato sera si possono spendere 200-300 euro a testa per scegliersi una bella ragazza e consumare? No, non penso che i berlusconiani, gli elettori di Berlusconi siano dei puttanieri di per sé, penso che poi ci siano le donne che a lungo sono state una base di consenso elettorale molto importante per Berlusconi, persino in un rapporto seduttivo che lui rivendicava e che effettivamente funzionava. A loro volta sono sconcertate oggi nel vedere riprodotte nella dimora del premier ed esasperate in forma porno gli spettacolini delle sue televisioni, che ci sono molto familiari, semplicemente forse in televisione non vengono mostrati i capezzoli, mentre nel sottoscala di Arco Resima lo spettacolo è il medesimo. Ecco, tutto questo io invece credo che lavori nel profondo anche dell'elettorato conservatore. Sì. E quindi a lungo andare alla fine poi la talpa scava. Giovanna, che ci chiama dalla provincia di Viterbo, come la pensa Giovanna? Ho con molta attenzione l'intellettuale Gardner, certamente per certe cose dice dei principi giusti, però vede, Berlusconi è un politico tutto particolare, poi si è scelto degli ottimi ministri, perché io devo dire da Tremonti, che ieri ha ribadito che è orgoglioso di appartenere a questo governo, di rappresentare il governo in Europa, e il futuro. Sì, ha detto così. Ecco, queste precise parole. Poi non si credano questi che noi elettori che possiamo votare centrosinistra o centrodestra. Io negli ultimi anni specialmente non ho nessun pregiudizio contro gli schieramenti, perché qua si parla come se chi vota del centrodestra forse è una specie, una razza inferiore, non ho capito bene questa cosa. Però questo come... chi l'ha detto? No. Si sente dire, insomma, anche la Spinelli che fa... La Spinelli effettivamente incarna un pochino la cosa che diceva Gad, cioè sì, le vero, due Italie, ecco, c'è cioè chi si sente su un gradino più su, uno più giù. Barbara Spinelli effettivamente un po', a mio giudizio, mi assumo la responsabilità di quello che dico. Ma al di là di questo, Giovanna, lei cosa dice? Che questa volta l'elettorato del centrodestra è un po' intaccato da questi comportamenti oppure no? Ma guardi, il comportamento è quello che già si sapeva, non è una cosa nuova. Sono i magistrati che con un accanimento, un tempismo incredibile hanno portato alla ribalta questi comportamenti. Però lei dice il lato di fondo nuovo non c'è. Ma anche uomini come i Kennedy, purtroppo molti uomini di potere hanno questa mania, questo vizio. Grazie Giovanna che insomma dà un po' ragione alla tesi Mulè, se posso così dire. Luigi da Bari invece che dice, che pensa? Sì, no, io penso che innanzitutto voglio fare una considerazione su quanto detto poc'anzi in relazione al danno che Berlusconi produce nei confronti dei cittadini. Secondo me si dimentica un concetto fondamentale che è quello della fede pubblica, cioè nell'affidamento che chi elegge i propri rappresentanti mette nel credere che questi facciano bene il loro mestiere. Cioè, secondo me, un'abitudine cattiva che abbiamo in Italia è quella di non pensare che chi ci rappresenta politicamente in fondo fa un lavoro. Sì. E in genere chi fa un lavoro e lo fa male deve andare via. Sì. Ma in questo caso i comportamenti e le ipotesi di reato sul quali si incardina questi atti e questa inchiesta, secondo lei, configurano il venir meno del far bene il proprio lavoro da parte del Premier oppure sono vita privata? Io penso che qui la distinzione deve essere fatta tra il discorso penale e quello... come dicevate voi, morale. Sì. Ieri sentivo Barbareschi, credo, che parlava di grande porco. Sì. Cioè, secondo me non c'è bisogno del terzo grado di giudizio per stabilire che siamo di fronte a una persona che non riesce a gestire i propri istinti. Sì. Come può gestire la vita di un paese? Tra l'altro, questo per tornare a Barbareschi, non vorrei fare considerazioni su quelli del FLI, perché pare si ricordino solo ora di mettere in campo la questione morale, quando il caso D'Addario e altri che sono scoppiati precedentemente sono stati visualizzati in tutt'altri termini. No, chiarissimo, comunque la tesi Luigi è no, i danni ci sono e chi non controlla i propri istinti non può fare il Premier a lungo andare. Allora, chiedo ai nostri due ospiti una riflessione di un minuto finale, a testa conclusiva, cominciando da Mulè. Istinti e politica, li separiamo, li teniamo uniti oppure non sono neanche gli istinti ma una maniera di divertirsi? Che pensi? Oscar, io penso che quello che uno fa sostanzialmente in camera sua sono, ahimè, mi spiace per Gad, ma restano fatti suoi, anche perché ragionando per iperbole, se io dovessi un domani piazzare una telecamera nell'ufficio di un magistrato che magari poi indaga su Berlusconi, scoprisse che questo magistrato invita tre amici a fare la mucchiata con tre amici, non ne potrei dedurre un giudizio su quel magistrato che è incapace di fare poi un processo per corruzione o per stragi perché nella sua camera da letto se la fa con tre uomini. Saranno pur sempre fatti suoi. Quello che io non mi stancherò di dire è che se i comportamenti del Presidente del Consiglio non hanno alcun riverbero nella sua vita pubblica da amministratore, da civil servant quale egli è, io non trovo nulla di male che faccia quello che gli pare, purché non faccia a del male nessuno e che soprattutto non, i suoi comportamenti non abbiano dei profili penali che poi incidono evidentemente sul giudizio che ne consegue della sua attività. Ok, alt stop e learner a questo punto invece. Conclusione, istinti e premiership. Sì, con una sottolineatura per la signora Giovanna, non vorrei risultarle troppo maliziosa. È vero che Tremonti si è detto orgoglioso di appartenere a questo governo ieri, oggi e in futuro. Non ha fatto il nome di Berlusconi, sì, lo abbiamo notato. Vero, vero. Credo che lo abbia notato anche Berlusconi. Credo che lo abbia notato anche Berlusconi. C'è però In lei questo riferimento ai Kennedy, io penso che se dei Kennedy fosse venuto fuori qualche cosa di simile a quello che ha fatto Berlusconi mentre esercitava il suo mandato presidenziale, beh, non soltanto lo scandalo sarebbe stato enorme, ma certamente si sarebbe dimesso, come si è dimesso prima dei processi anche il presidente israeliano. Ma i giudici ai tempi di Kennedy non è che avevano queste gran possibilità per indagare tra mafia e donne. Comunque, insomma, restano, come avete visto, i due giudizi separati, diversi. Vedremo a lungo andare cosa accade tra gli ascoltatori, tra gli elettori, e vedremo soprattutto quali sono le possibilità che la politica italiana si articoli, perché la realtà è che senza un'opposizione che dica andiamo a votare ti sfido, io penso che abbia ragione chi dice che l'immobilità prevale e che quindi che il premier resta. I danni sul paese, nella coscienza nostra, vostra, e nell'agibilità politica rispetto alla priorità, quelli dell'immobilità secondo me aumentano, che si pensi il Silvio Berlusconi. A domani, intanto Lina Giornale Radio.